questo. Godiamo di avere due case, più ricchi di noi, due case, come lui. La trascendenza e la creaturalità, due termini scientifici, teologici, difficili, ma giusti. La sua trascendenza è l'immensità, l'infinità della divinità. Ecco la sua prima casa. E la sua seconda casa, la creaturalità, questo mondo creato, che sembra tanto grande, e poi capiremo che era un niente. Ed è venuto a dirci, anche voi come me, ora voi abitate questa casa terrestre, misurata, labile, ma vi aspetto, io salgo alla mia trascendenza, conducendo con me il corpo risuscitato. Vi aspetto lassù e la mia casa prima sarà la vostra seconda casa. Voi mi avete ospitato qui nella vostra casa. Fortunati i pastori di Betlemme che hanno accolto nella loro stalla aperta ai quattro venti, hanno accolto la trascendenza di Dio. Fortunati loro. E gli dirà: voi avete accolto me, adesso accoglierò io voi, non in una stalla, non in una casa fatiscente, ma nella mia casa, la casa della luce, la casa della pace, la casa dell'amore, la casa della gioia, la casa della festa, festa senza fine. Alla presenza di Dio. Siamo ricchi, abbiamo due case. Il Figlio di Dio facendosi uomo non cessò di essere Dio. Dio non può cessare mai. Facendosi uomo, creatura, bisognosa di tutto come noi, di una mamma, ecco, anche lui, del riposo della notte, anche lui bisognoso di compagnia, di amicizia, di aiuto, non cessò di essere Dio. Abitando la nostra povera terra, pur così grande nella sua nullità, egli non ha lasciato la trascendenza. Ed è venuto a dirci che siamo tutti aspettati in quella casa. Che non abbiamo paura di passare a quella casa. Che non siamo così sciocchi da perderci in cose secondarie da niente, che non siamo così sciocchi da dare troppa importanza alle cose che non ne hanno importanza, trascurando quelle così importanti che si riducono tutte a una sola: salvare l'anima. È salvato tutto. Perduta l'anima, è perduto tutto. Un'anima sola si ha. Se si perde, che sarà? Chi di noi ha un'anima di ricambio? È molto bello questo pensiero. Noi abbiamo tutti due case. Una l'abitiamo provvisoriamente, l'altra stabilmente. Questa è preparazione di quella. Comportiamoci in modo degno da essere introdotti in quella seconda casa, la casa delle ferie, la casa delle feste, la casa delle sagre, la casa della felicità stessa di Dio, Dio stesso, Dio stesso.